Italia in controluce. 13, 34 minuti e 47 secondi, e Daniele Biacchesi che vi parla, ed è la seconda edizione di Italia in controluce, la cronaca italiana, i problemi delle città, le eccellenze, secondo Radio 24. Torino, Milano, Bologna, Firenze, Pescara sono i più importanti dei 169 comuni che hanno bloccato il traffico per 8 ore nella giornata di ieri. Per qualcuno è un'iniziativa utile, ma sarà così? La città è vivibile, alleluia. Penso che tutto il centro di Torino con molto ritardo dovrebbe essere chiuso al traffico, sempre. Uno sforzo di questo tipo da parte dei suoi cittadini, anche una domenica sì, una domenica no, sarebbe buono. Così i cittadini di Torino hanno risposto alle nostre domande, e anche nelle altre città che hanno aderito al blocco del traffico di ieri le reazioni, perlomeno ai nostri microfoni, sono state simili. Andiamo a Bologna. È un'ottima iniziativa. Io bloccherei molto di più, ma non farei proprio entrare nessuno nel centro storico. Sente come si respira un pochino meglio, poi non c'è rumore. E adesso a Milano. La cosa migliore che possano aver pensato. Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo sulla domenica senza auto. Ci sono troppe deroghe. Io lavoro in una televisione, quindi tutti quelli che lavorano c'è la deroga, io incluso, però io non userò la macchina. Ecco uno dei tasti dolenti della giornata di ieri. Le tante deroghe che hanno fatto sentire le persone sottoposte al divieto di circolazione quasi cittadini di serie B. E a Milano ha pesato anche la mancata adesione al blocco della quasi totalità dei comuni della provincia. L'Interland non aveva seguito l'appello lanciato dal sindaco Moratti insieme al collega Chiamparino quando, in un primo tempo, l'iniziativa era stata presentata come una misura tecnica antismog. A molti era apparso ingiusto, oltre che inutile, far gravare le responsabilità sul traffico veicolare privato. Sentiamo Enrico Gelpi, presidente dell'Automobile il Club d'Italia. Guardi, il sistema del trasporto, e questi sono dati che ha fornito il Ministero dell'Ambiente a un recente convegno in cui c'ero, incide per il 25%. All'interno del sistema dei trasporti l'auto incide meno del 10% e soprattutto le auto nuove. Certo, è facile, è anche molto, molto demagogico. Noi suggeriamo che l'approccio all'inquinamento sia un approccio un po' più sistemico e quindi che vengano affrontati i problemi in modo strutturale. Alla fine, a rispondere all'appello, lasciando le auto in garage, sono stati 169 comuni, un centinaio in Lombardia, una sessantina tra Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli, ma ad aderire alla Lega Antismog anche città ben lontane dalla pianura padana come Firenze, Trento e Pescara. Un blocco che, se nulla ha potuto contro l'inquinamento, ha significato però molto, secondo i promotori, a livello simbolico. Flavio Morini, delegato all'ambiente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha indetto la giornata. Noi crediamo di aver ottenuto un grande risultato. Intanto, negli ultimi 10 giorni abbiamo fatto 2 audizioni e ci siamo riuniti 2 volte al Ministero dell'Ambiente. Intanto tutti i giornali ne hanno parlato, i cittadini ne hanno sempre di più preso coscienza di queste problematiche, e quindi bisogna creare una coscienza collettiva proprio perché si capisca quella che è la dimensione e la gravità del problema, da non sottovalutarlo, perché chiudere il traffico per un giorno dal singolo comune o anche da una serie di comuni è una misura assolutamente limitata come effetto, può avere l'effetto di fare una bella passeggiata nella città, ma non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è quello appunto di dire che se non facciamo qualcosa, non troviamo delle risorse, stabiliamo tempi e modi e ci coordiniamo, rischiamo veramente di produrre dei danni alla salute umana. Questo è il senso. Quindi la dimostrazione, un segnale forte unendosi tutti i comuni. Questa iniziativa era questo il senso, se no non ne vedo altri. Trascorsa la domenica piedi simbolica, ora è il tempo delle misure concrete. Quali, quelle da adottare e come? Andrea Giambartolomei lo ha chiesto al sindaco di Torino, Sergio Chiamparino. Ma noi abbiamo chiesto al governo di costruire un piano che metta a disposizione risorse per intervenire sulle priorità del contrasto dell'inquinamento, che sono, diciamo, il riscaldamento, e migliorare il trasporto pubblico, sostituire poco per volta gli ultimi bus non ecocompatibili con bus di ultima generazione. Però per far questo ci vogliono risorse, riguarda Torino, ma riguarda Milano, riguarda tutte le grandi città naturalmente. E l'ANCI, di cui il sindaco Chiamparino è presidente, ha annunciato per oggi l'invio di una lettera a Silvio Berlusconi. All'interno la richiesta di convocazione di una conferenza unificata straordinaria per combattere con piani strutturali non più emergenziali l'inquinamento nelle città. Grazie a Roberta Pellegata, autrice di questo racconto di Italia in controluce sul blocco del traffico di ieri. Italia in controluce. Nel giorno dello sciopero degli immigrati e delle nuove polemiche sulla sicurezza nelle città, oggi a Italia in controluce torniamo in via Padova, a Milano, ma il nostro racconto si delinea su una prospettiva diversa.

13:44 minuti e 38 secondi. Il racconto d'Italia in controluce termina qui. Vi saluta Daniele Biacchessi. Le puntate www.radio24.it le potete scaricare anche su podcast. Il gruppo di Facebook sta andando benissimo, oltre 1100 iscritti. Radio 24 Italia in controluce, 1100 iscritti in un mese, non sono pochi. La mail controluce@radio24.it. A risentirci domani alle 6:30.